RadioTube Social Network. Eccoci insieme con RadioTube Social Network, la seconda ora in diretta qui da Vicenza Oro. Siamo, come tante altre trasmissioni di Radio 24, in diretta da questa fiera piena di brilli, luccichi, cose preziose. Mi sono proprio riempita gli occhi di cose bellissime. Ma torniamo alla nostra trasmissione. Io ovviamente prima del GR ho lanciato RadioTube Social Village, ma perché sapete che io sono un po' rimbambita. RadioTube Social Network è la seconda ora del nostro sabato in diretta con Radio 24. A proposito di social network, come ci trovate, come mi trovate per quanto riguarda i social? Chiocciola Marta Cagnola su Instagram e su Twitter, che sono poi i social che uso. Ogni tanto qualcuno mi chiede l'amicizia su Facebook, ma io non lo uso tanto, quindi Instagram soprattutto per le stories e Twitter. Allora, 3492386666 come sempre per i vostri messaggi, e come sempre quando sono in esterna vi chiedo la cortesia di mandare SMS e non WhatsApp, perché sono un po' più comoda a leggerli, solo per quello, solo per un po' di pigrizia, come volete, ma sabato pomeriggio rilassiamoci un pochino e andiamo un po' a parlare dei video della settimana. Per aprire la nostra ora di RadioTube, cosa manca? Solo un co-conduttore. Abbiamo un co-conduttore d'eccezione, con lui per forza poi parleremo ancora un po' del Festival di Sanremo, ma non subito. E torna a trovarci un super esperto di storia della musica, di storia del costume, il grandissimo Eddie Anselmi. Ciao Eddie! Ciao Marta, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24. Oh, eccolo. Allora, vi dobbiamo dire un segreto. Doveva essere accanto a me Eddie oggi, ma c'è stato qualche guaio sulle linee ferroviarie e quindi purtroppo è stato per lui impossibile raggiungere Vicenza. Ma noi ci siamo comunque, riusciamo ad averlo come se fosse qui, anche se purtroppo non l'ho potuto abbracciare dal vivo. Questo mi dispiace molto. Allora, Eddie, io ti faccio ascoltare il primo audio della settimana e giuro che non ti farò prendere posizioni scomode, ma secondo me il primo audio della settimana è questo. Stefano, vogliono che ci tocchiamo la manina? Dov'è? Vi conoscete? Ciao, ciao, come stai? Solo che non mi voglia baciare Bonaccini, perché no, non lo bacio Ferrario. Bene, grazie, bocca al lupo a tutti, grazie. Grazie. Sarà stato l'effetto Confindustria, però c'è stato il bacio in casa Confindustria Emilia Romagna tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. Allora, non vorrei che fosse un argomento troppo spinoso per Eddie Anselmi, che è bolognese, perché insomma... Emiliano Linetta Romagnolo. Emiliano Linetta Romagnolo, dunque insomma sei un po' troppo parte in causa. Allora, diciamo solo dal punto di vista comunicativo, questa cosa che è nata per caso secondo me è un bel ritorno d'immagine per tutte e due, ma soprattutto mi è piaciuta perché mi sembrava che desse un po' di serenità a un momento piuttosto teso nella regione, diciamo così. Sì, è una campagna giocata molto sull'immagine, molto sulle strategie, sulle tattiche. In realtà dovrebbe essere un confronto di proposte, in realtà è più un confronto di posizioni. Purtroppo funziona così la politica adesso, e la gara delle elezioni è una cosa diversa da quel colloquio tra due candidati alla stessa posizione che dovrebbe essere, ma questa è un'opinione personale, parlo di questo. Il bacio ci sta in una visione del genere. Beh, anche perché poi tu sei sempre molto galante, quindi secondo me ti sei subito immedesimato con il candidato galante che dava il bacio, dai, diciamolo. Beh, per motivi anagrafici e di... c'è un candidato che assomiglia di più a me, ma proprio perché ha più la mia età, lo stesso genere, più o meno, insomma, sì. Una è di Bologna, però l'altro è di Modena, io sono di Bologna, vedi, per fare un po'. Quindi vedi, un po', allora sei equidistante. Ma a proposito però non parlo di politica in radio. No, ma infatti noi parliamo, ho detto, non voglio farti entrare in cose spinose, perché se fossi stato di un'altra regione te l'avrei potuto spingermi di più, però sei parte in causa come lettore, non diciamo nulla. Allora, a proposito di genere, questa scorsa settimana è stata quella di tantissime polemiche sul sessismo. Ne parleremo tra poco, perché ovviamente ci toccherà tornare sulla questione di Amadeus in qualche modo, ma ieri sera è successo qualcosa di particolare da Lilli Gruber. Io non so se l'avete sentita, non so cosa ne pensate, però c'era ospite, c'era Massimo Giletti, c'era anche Massimo Giannini, ma c'era soprattutto Maria Elena Boschi, ed è successo questo. Signor Boschi, siamo in chiusura. Lei ha rivelato recentemente al settimanale Chi di aver avuto una relazione molto importante, segreta, di cui nessuno si è accorto. Mm-hmm. Uno, perché l'ha tenuta nascosta, due, è finita questa relazione. Ma lui se ne siamo accorti, però. Beh, sì, volevo, sì, no, no, perché è detta così. No, cioè, sì, è finita, e, però come si dice in questi casi, no, ma è vero, nessuno ci se vogliamo ne bene, no, no, ci vogliamo Michi bene, è stata una storia importante. Va bene, ma perché l'ha tenuta nascosta? Perché penso che possa esistere anche una forma di tutela della propria vita privata, mi sembrava però, nel momento in cui me l'hanno chiesto, poco rispettoso verso di lui, quello che abbiamo vissuto, verso la sua famiglia, dire una bugia, dire che non era vero. Dice, no? Gli uomini io li faccio correre, gli uomini scappano, per forza finisce. No, sono dietro. Va bene. Abbiamo capito. E adesso ha un fidanzato, compagno, una relazione? Non penso sia così rilevante, ma no. Va bene. Ma come, grazie. No? Hanno detto tutti che ce n'è uno, incredibile. Grazie, no. Allora, questo è successo ieri sera 8:30, molti si sono arrabbiati perché hanno detto, ma come Lilli Gruber, che ha una donna della politica, chiede sei fidanzata, non sei fidanzata. Io vi dico subito la mia. Bah, io l'ho trovata assolutamente, cioè mi sembrava un po' una cosa tra donne, ma dimmi se sei fidanzata, non l'ho trovato troppo un gossip invadente, però non lo so. Eddie, tu cosa ne dici? Ma è sempre quel discorso di prima, politica, costruzione d'immagine, quindi nel momento in cui l'onorevole Boschi, la signora Boschi, fa rotolare questo argomento, l'intervista a Chi, dopodiché vuol dire che accetta di costruire la sua immagine anche su questo scambio di informazioni, di chiacchiere, di risultato. È un argomento che tira fuori lei, e quindi va bene, la scelta, le carte su di lei le ha cominciate a dare lei stessa. Questa cosa è molto interessante. Ti posso chiedere di un'altra donna, Eddie? Allora, senza entrare nei tecnicismi, questa settimana è successo qualcosa in casa Savoia, perché Emanuele Filiberto ha abolito la legge Salica, adesso però mi devi spiegare un po' cosa è successo, e quindi virtualmente avremo una nuova erede al trono. Eddie, intanto mi spieghi questa cosa e poi spiego perché c'entra RadioTube. Allora, la legge Salica è quella legge delle monarchie di una volta, poi c'è la legge Salica intermedia, quello che è l'Inghilterra, cioè che i figli maschi prevalgono sulle figlie femmine, o del tutto come in casa Savoia, o meno, quindi se c'è un figlio maschio e una figlia femmina e dopo nasce un figlio maschio gli passa davanti, però se c'è solo una figlia femmina prende il trono la figlia femmina, com'è per esempio come era nei paesi nordici, come era in Inghilterra. La legge Salica sarebbe stata abolita da Emanuele Filiberto, però non è che ci sia un Parlamento, cioè il legame tra corona e dinastia è stato scisso col fatto che l'Italia non è più una monarchia, quindi lo statuto albertino nel regime monarchico rimane con una serie di procedure e di statuti immutabili. Questo dicono i contrari, al di là del fatto che sia più o meno Emanuele Filiberto o un altro pretendente al titolo di principe di Casa Savoia, perché anche il mondo monarchico è diviso su questo. L'associazione più rappresentativa del mondo monarchico, per esempio, ritiene che la linea vittoriana, si chiama, abbia perso i diritti dinastici. Allora, ma perché io ti ho chiesto tutto questo? Perché pare che oggi Emanuele Filiberto ha dichiarato che Vittoria va fortissimo sui social, e sui social la vogliono come regina. Allora, tu che sei esperto di costume ma anche esperto di reali, ma i reali sui social cosa ne pensi? Cioè, Vittoria è praticamente un influencer. Ma io penso che ho un giudizio molto critico anche verso i reali, per esempio, di duchi del Sussex, che diciamo brevettano il loro titolo reale per usarlo commercialmente. Allora, nel mondo moderno, cioè la monarchia è un grandissimo privilegio, perché questa identità tra persone, tra famiglia e nazione è una cosa eccezionale, un residuo storico, però nello stesso tempo estremamente funzionale, ed è per questo che c'è. Beh, nel momento in cui una persona è investita di un potere statale, sia pure come familiare, sia pure come linea di discendenza e quant'altro, va a brevettare questo e a venderci le magliette, mi sembra che questo patto si rompa, cioè nel senso, nel momento in cui torni a essere un comune mortale, non è che puoi brevettare i duchi del Cambridge, i duchi di Sussex, cioè è proprio una contraddizione in termini, o fai il principe reale o vai a lavorare, vai benissimo, ma è eccezionale che ci sia la monarchia. È lì perché continua a funzionare, anche se... Da quelle parti, allora, però vogliamo dire che adesso da quelle parti, non da noi. Da noi, da noi vabbè, no. se vuole fare l'influencer, diciamo che io sarei molto curiosa di vedere come va questa vittoria di Savoia, che effettivamente è una splendida ragazza, quindi sarebbe insomma un altro appiglio di gossip in rete. 17-16 minuti, diamo la linea alla viabilità e poi vabbè dobbiamo tornare un po' sull'argomento Sanremo, perché ovviamente questo è l'argomento della settimana sui social. Ho perso un po' di tempo, però purtroppo ve lo beccate di nuovo tra pochissimo. Radio Tube Social Network. Ed eccoci ancora insieme, noi siamo a Vicenza Oro per questo sabato pomeriggio in diretta. Purtroppo il nostro co-conduttore non è riuscito a raggiungerci, perché è stato un pomeriggio, come avete sentito, sulle strade abbastanza agevole, invece per quanto riguarda i treni è stata oggi una tragedia, quindi praticamente non sarebbe partito per arrivare 2 ore prima della diretta da Bologna, ma alla fine non è mai riuscito a partire da Bologna, ma noi comunque siamo riusciti a cogliere Eddie Anselmi. Ancora benvenuto Eddie, però a questo punto la prossima volta la facciamo a Milano, che così non mi sfuggi. Allora Eddie, la prossima volta veniamo al mattino, così andiamo anche a pranzo insieme. Esatto, bravo. Devo festeggiare, anche perché dobbiamo festeggiare, perché il 14 gennaio è uscita quella che tra noi addetti ai lavori chiamiamo la Bibbia. Allora, le Bibbie sono due: una è il Sorrisi e Canzoni, che esce con i testi di Sanremo. A qualcuno mi ha chiesto se ieri abbiamo sentito le canzoni e possiamo pubblicare i testi. No, possiamo pubblicare solo piccolissime parti dei testi, non li possiamo pubblicare integralmente, perché ovviamente uscirà questo settimanale che tradizionalmente è il depositario dei testi e li annuncia per primo. L'altra Bibbia è il Festival di Sanremo, che è un tomone di 720 pagine, che è uscito proprio il 14 gennaio 2020, edito da De Agostini e scritto chissà chi è il più grande esperto, se non appunto Eddie Anselmi. Allora Eddie, uno dei più accreditati esperti, perché sul più grande c'è una diatriba, è uno dei più accreditati. Faccio un passo indietro. Un passo indietro, l'hai detta giusta. Un passo indietro. Allora, sta cosa del passo indietro questa settimana ha creato non pochi problemi al povero Amadeus. Allora, già nella prima ora, chi se la fosse persa, intanto può andare a recuperare il podcast. Io ho risolto la mia questione personale nell'intervista che ho fatto ieri ad Amadeus. Io personalmente sono soddisfatta. Perché, vabbè, non vi ripeto perché, però insomma io l'ho risolta con l'intervista di ieri. Allora, cosa è successo in questa conferenza stampa che ha infiammato, fatemelo dire, non lo dico mai, per una volta fatemelo dire, il popolo della rete? Ecco qua cosa è successo in conferenza stampa. E poi ho piacere di avere donne meravigliose questo festival, Francesca Sofia Novello. Grazie Francesca, è una ragazza, ovviamente sono tutte molto belle, una modella, una ragazza bellissima, sappiamo ovviamente essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo che intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro. La capacità di stare accanto a un uomo stando un passo indietro. Allora, io non voglio fare l'esegeta di Amadeus, però io ho capito che lui non è che si è espresso proprio benissimo, però io non sono della scuola dell'Amadeus pericoloso sessista. Eddie, non chiedo nemmeno a te se sei della scuola del pericoloso sessista o di quello che ha fatto una gaffe. Ti chiedo perché sui social si è scatenata così tanto la polemica. Cioè, stiamo parlando nemmeno ancora di Sanremo, stiamo parlando della conferenza stampa di presentazione del cast. Dunque, Eddie, come mai tutta questa foga? Cioè, allora vuol dire che ci piace ancora sto Sanremo, forse? Beh sì, Sanremo è Sanremo. Sanremo è la nostra festa nazionale, il Natale, il nostro altare della patria. Tutto quello che è dibattito pubblico è Sanremo e tutto quello che è Sanremo diventa dibattito pubblico. Quindi, siccome chi è di turno più o meno cerca di usare Sanremo per usarlo come suo sipario e come suo presepe dell'Italia di oggi, questo almeno si pensa, questa è l'interpretazione di Sanremo che danno i media, poi è giusto che quando tutto quello che succede a Sanremo abbia un'amplificazione, un sismografo che poi riverbera anche nella caverna del paese, insomma, a diverse profondità. Allora, c'è qualcuno che su Instagram ha commentato: altra polemica che fa parlare del carrozzone sanremese, come ogni anno me lo perdo volentieri, scrive Roberto, anche perché c'è sempre chi polemizza e dice però io non lo guardo. Anche quella è una vecchia storia, Eddie, con in più il social, però insomma non mi importa, non lo guardo ma mi arrabbio, è un altro grande classico. Ma sociologicamente i tanti che dicono non guarderò Sanremo sono identici a quelli che lo guarderanno, perché comunque parlano di Sanremo, cioè il vero, quello che veramente ignora Sanremo, quello che proprio che non ne parla, quello che cambia argomento, ma esistono, figurati quanti ne ho incontrati io, quello è la persona che non fa insomma il gioco del festival. Ma chi dice, chi si arrabbia per Sanremo e dice non lo guarderò, ecco, fa un danno marginale se è uno dei 5.000 del campione Auditel, non fa nessun danno, anzi contribuisce alla grande causa del festival, al grande rumore sul festival se lo scrive sui social. Allora, per quanto riguarda il Festival di Sanremo, e poi apriamo altre pagine, ma voglio chiederti ancora questo su Sanremo, tra le cose che ci sono le bufale, ci sono le cose che siamo convinti che siano vere, ma non lo sono, bufale che vengono poi perpetuate negli anni, così, con la tradizione orale sbagliatissima. Io questa settimana mi sono divertita su Twitter e su Instagram, ho fatto dei piccoli video facendo delle domande ai followers, perché secondo me ci sono delle cose che siamo convinti di sapere e non le sappiamo. Eddie Anselmi è un po' l'antibufala del festival, come Paolo Attivissimo, che ogni tanto sentiamo nella nostra trasmissione, che fa il servizio antibufala. Dai, ti giro le domande che ho fatto questa settimana, visto che poi io la risposta non l'ho data, perché ho detto andate a leggere il libro di Eddie. Allora, la prima domanda era, e adesso io guardo anche qua in postazione con me, Elena Ligios, Guido Scotti e Luigi Speciale, vediamo se loro sanno rispondere. Vasco Rossi è mai arrivato ultimo a Sanremo? Elena dice di no, Guido no e Luigi dice di no. Perché dicono di no? Perché se è una bufala tutti sanno che è arrivato ultimo a Sanremo. Eddie, è arrivato ultimo a Sanremo? No, non è mai arrivato ultimo a Sanremo. Un anno, nell'83, con Vita Spericolata era arrivato penultimo, ma nell'82 le canzoni classificate dopo il sesto posto non ci si sa in che ordine sono, e lui, essendo in ordine alfabetico ultimo, Vasco Rossi, e in ordine alfabetico la canzone ultima, Vado al massimo, alla fine si ritrova ultimo in tutti gli elenchi, quindi quando fanno qualche stampa veloce o rapida, o qualche lettura rapida, sembra veramente ultimo in. Quindi nasce la leggenda che Vado al massimo è arrivato ultimo, no? Cioè non è detto, almeno non si sa, non si saprà mai, forse. Non si saprà mai. Allora, di che colore era la giacca che Domenico Modugno indossava quando cantò Nel blu dipinto di blu? Allora, beh, sì, certo, Luigi Speciale dice la TV era in bianco e nero, e se no la domanda era facile. Allora, sui social tutti mi hanno risposto bianca. Oppure azzurra? È giusto? No. No. La giacca di Domenico Modugno, quando cantava nel blu, dipinto di blu, al teatro del teatro, alla sala delle feste del Casino di Sanremo, era gialla. Era tuorlo d'uovo. Era tuorlo d'uovo. Perché scelse questo colore così assurdo? Non lo scelse lui, tutti i cantanti del festival, secondo l'organizzazione del 1958, furono tenuti a usare un doppio petto tuorlo d'uovo con reverse di raso ton su ton. Beh, straordinario. Queste domande non ha nessuno questa settimana sui social mi ha risposto, ha risposto correttamente allora, a questa domanda. Cioè, perché Celeste? Perché nel 2014 la Franca Gandolfi, moglie di Modugno, consegna alla produzione Rai della fiction Volare, quella sul marito, la giacca del 59, azzurra con i reverdi raso bianchi che sembravano grigi, e dice: questa è la giacca del 58, ma lei confonde 58 e 59, le foto parlano chiaro. Sono in bianco e nero, ma sono due tagli, due bottoniere, due tipi di giacca completamente diverse. E questa giacca viene portata poi dopo da Beppe Fiorello, che canta Volare in azzurro, ma in realtà è la giacca dell'anno dopo, quando ha cantato Ciao Ciao Bambina. Beh, è andata così. Nell'immaginario collettivo è rimasta una giacca di colore diverso. È un'altra delle leggende che circolano in rete. Dai, l'ultima domanda che ho fatto questa settimana su Instagram e su Twitter era stata: qual è stata la cantante più anziana a vincere Sanremo? E quindi le risposte che sono arrivate sono state soprattutto Nilla Pizzi e Iva Zanicchi. Auguri Iva, che oggi compie gli anni, non si dice quanti sono per una signora, ma insomma qualche annetto lo compie, favolosa. Eddie, è una di queste due? No, non è né Nilla Pizzi né Iva Zanicchi, perché attenzione, Nilla Pizzi è una delle cantanti che abbia vinto il festival in età più avanzata, ma non è assolutamente la prima, con adesso 39 anni, pensa, 37 anni, scusa, 9 mesi e 30 giorni, la vincitrice meno giovane della sezione principale è Anna Oxa nel 1999. Vedi, nessuno l'aveva indovinata, 37 anni, quindi comunque giovanissima, quindi quest'anno Iva Zanicchi credo che... vinse il suo ultimo festival a 34 anni, 1 mese e 19 giorni, Nilla Pizzi a 32 anni, 9 mesi e 11 giorni. Accidenti, vabbè, ma perché sono dei nostri ricordi del passato. Quest'anno qualcuna potrebbe battere, cioè non nel senso di favorita, ma almeno anagraficamente potrebbe battere Anna Oxa. Ma non è carino parlare dell'età delle signore e potrebbe battere anche il record degli uomini. Il record è lui, il vincitore meno giovane in assoluto, ma è Roberto Vecchioni, 67 anni, 7 mesi e 25 giorni. Ah, quindi quest'anno qualcuno potrebbe batterlo. Ebbene sì, qualcuno potrebbe fare il record assoluto. Hai ragione, almeno anagraficamente potrebbe succedere così. Allora, quante leggende circolano in rete e quante leggende abbiamo sfatato in questo piccolo blocco con Eddie Anselmi. Torniamo tra poco, perché allora, Ed, io non so quanto tu sei preparato sulla moda. Non lo so, non è proprio il tuo campo la moda, però ne parliamo tra poco, perché la moda e i social network anche questa settimana hanno fatto molto parlare. Ne parliamo tra poco. Radio Tube Social Network. Allora, eccoci ancora qui da Vicenza Oro. C'è anche, non so se sentite molta animazione, c'è un po' di musica di sottofondo. Effetto fiera, ragazzi, effetto fiera. Il bello anche delle fiere, questa grande animazione. C'è un sacco di gente, oltre che un sacco di gioielli bellissimi. Ahimè, ho solo guardato, vi assicuro, ho solo guardato. Però mi sono beata delle bellezze che abbiamo visto qui a Vicenza. Siamo in diretta ancora con il nostro co-conduttore, che per questa volta non è riuscito a raggiungere, perché ve l'ho detto, c'è stato veramente un caos. Chissà quanti di voi questo pomeriggio hanno cercato di attraversare l'Italia con il treno, ma purtroppo c'è stato un grave incidente nei pressi di Ferrara, quindi tutto si è bloccato. Allora è in collegamento con noi da Bologna il nostro super esperto Eddie Anselmi. Ciao Eddie. Ciao Marta, ciao alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24. Adoro Eddie quando dice così. Allora, devo leggerti un sms che è arrivato al 349-238-6666. Davide da Varese: quest'uomo è un mostro di cultura sanremese, meraviglioso. Vedi, perché ci sono cose che sai solo tu. Anzi, tieniti in canna un'altra curiosità che poi ce la dici. Una di quelle cose che noi siamo convinti di sapere tutti, invece nessuno di noi sa. Comincio a pensarla. Intanto lancio l'argomento di questo blocco. Perché? Perché sempre di più la moda è legata ai social e alla rete. Questa settimana una rivista di moda molto nota, che è Grazia, addirittura ha dedicato la copertina moda Instagram e moda TikTok, cioè la moda che piace ai ragazzi. Ovviamente quando si parla di moda non si può non citare e non ascoltare Chiara Ferragni. Ciao guys, just wrapped 2 days of shooting this new awesome campaign in Mexico City. And today I'm flying back to my family and I'm so excited. And I'm wearing the new Chiara Ferragni collection. I like sweater and trousers. And I think this is my new favorite airport look. I'm gonna shoot photos later. Allora, se avete sentito quella frazione di secondo di silenzio, è perché queste erano due stories di Chiara Ferragni, quindi 15 secondi e 15 secondi. Lei rientrava da un photo shooting in Messico e, caso strano, per viaggiare comoda stava indossando la sua nuova tuta del suo brand, quindi si faceva un po' di pubblicità appunto su Instagram. Chiedo subito un parere su questa figura estremamente, fatemi usare questo aggettivo che non lo uso mai, divisiva come Chiara Ferragni, alla nostra grandissima esperta di moda nonché grandissima amica adorata Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao Marta, preferirei non rispondere a questa domanda. Ho notato che ha detto "to" anziché "to" e quindi anche il suo English è fake. No, io mi hanno detto tutti, mi spiace, mi hanno detto tutti che è una persona molto carina, corretta, che restituisce i vestiti che le vengono imprestati, quindi io non, questo naturalmente depone a suo favore. La sua figura di ex influencer e ora, come preferisce essere chiamata, imprenditrice digitale, su quella ho qualche dubbio in più, però sarebbe un discorso lunghissimo, quindi insomma Chiara Ferragni si goda il suo successo e vedremo. Tu hai detto una cosa veramente, cioè restituisce i vestiti, perché scusami, quelli che se li fanno prestare a volte se li, come si dice, se li inguattano, se li tengono. Tu hai parlato di gioielli, capita anche con i gioielli, quindi no, insomma, ti prego, no, ti prego, cioè io mi faccio prestare una parure, poi faccio la vaga e non la restituisco, sì, e non mi faccio trovare, mi faccio rincorrere, sì, questo insomma è un po', succede, sì. E ti prego, allora, anche di non farmi commentare su Amadeus, perché no, non ce la faccio. Invece, no, su Amadeus niente, no, vorrei diciamo invece dirti, so che tu non la pensi, no, come, ma non diciamo nulla. Vorrei invece dirti una cosa su quella bellissima idea di usare la Rückenfigur. Perché forse per gli ascoltatori, insomma, uno dei dipinti più, visto che è stato citato anche Caspar Friedrich, uno delle più belle Rückenfigur è il quadro del viandante sul mare che guarda la nebbia, e perché appunto è visto di spalle, un quadro del 1818, sono andata a cercare adesso, ma è bellissimo. Ah, vedi, quindi chi si fosse perso la prima ora di RadioTube la recuperi, perché con Dardust, che è un personaggio davvero particolare, molto interessante, abbiamo parlato di questo argomento. Eddie, allora, questa puntata io a Vicenza, Eddie a Bologna, Giulia a Milano, Eddie Anselmi sarà nel cast dell'altro festival di Sanremo, cioè il Dopo Festival, che quest'anno andrà in onda su RaiPlay, quindi sulla piattaforma. Eddie, tu hai già pensato a quale stilista? Di solito, anzi, ti faccio la domanda che si fa in questi casi: chi ti vestirà? Oh mio Dio, no, devo dire che comunque no, è una bella domanda, però in genere no. Chi ti vestirà? Cioè mi vestirò da solo di solito. La mi vestirò da solo, sì, ma no, ma senza queste battute, no, che si facevano, no, quando eravamo piccoli, no, c'erano le mode, di che questa felpa di Valentino, la mia è mia, no, sì, mi vestirò da solo. Eppure, guarda, però... Marta, secondo me ha proprio colto nel segno un po' quello che ci siamo dette tante volte. Il bello è quando, per carità, fa piacere a tutti, specie quando si è giovani, seguire una moda, sentirsi parte di un gruppo, da un senso di appartenenza, forse addirittura di sicurezza. Però il momento bello è quando dici: questa me la sono comprata e la metto perché mi piace, perché mi piace come mi sta. Quindi è il contrario del seguire un influencer. E metterti. Anzi, ti dirò di più. Secondo me adesso è anche chic dire: ah, guarda, ma no, l'ho pagata niente perché l'ho trovata con una botta di fortuna. Sì, assolutamente. E io stavo riflettendo quando tu mi hai chiesto appunto di così fare due parole su questo argomento. Secondo me la generazione Greta, che io personalmente adoro, anche se sono del 69, quindi sono molto lontana da lei anagraficamente, sono persone che non hanno alcuna intenzione di farsi dire come vestirsi o peraltro come comportarsi su tanti altri argomenti. Cioè sono, secondo me, persone che vogliono farsi la loro opinione, che studiano, che sono competenti. Perché una cosa che aggiungo sugli influencer della moda è che, guarda caso, non ci sono nei gioielli, non ci sono nel beauty, dove invece ci sono delle persone molto competenti, non influencer, e non ci sono in altri settori. Mi vengono in mente gli orologi, cioè lì ci sono persone competenti che tu ascolti, non perché ti dicono questo mi piace, ma perché ti spiegano, perché una cosa ha un valore che è tutto un altro universo. Verissimo, verissimo. Oddio, sul beauty dipende, perché sul make-up, sì, hai ragione, è un'altra sul cosa make-up, ancora. Sì. Sul make-up è un'altra cosa ancora. Prima con Eddie Anselmi abbiamo citato forse dei futuri influencer, che sono Harry e Meghan. Secondo te potrebbero scegliere questa strada, influencer della moda? Ma sai, una volta furono i bloggers ed erano in prima fila le sfilate. Poi arrivarono gli Instagrammers, che appunto sono gli influencer che principalmente hanno degli account su Instagram. Adesso ci sono, li hai citati anche tu prima, i TikTokers, che anche loro cominciano a essere su, vengono invitati alle sfilate. Sì, Harry e Meghan secondo me, ma forse sì, lei tra l'altro è un'appassionata di moda sicuramente, lui ogni tanto fa così qualche più originale sicuramente del fratello. Sì, io penso di sì, a me sono molto simpatici, soprattutto lei. Non credo assolutamente a quello che ho letto, che vogliono divorziare, poi magari verrò clamorosamente smentita. No, non ci credo, io non ci credo. Sì, lo dice Antonio Caprarica, ma mi sembra veramente così, voler veramente prevedere delle cose brutte e poi quella pratica tedesca tremenda che è il Schadenfreude, cioè essere contento dei guai altrui. No, io credo sì, potrebbero essere influencer in un senso molto ampio del termine, cioè quello che fanno, e che anche loro naturalmente utilizzano molti social network, e che ci raccontano, perché no? Mi potrebbe piacere, sicuramente ci sono persone che potrebbero essere interessate alle loro storie e ai loro gusti. Altra domanda, Giulia. Questa settimana si è parlato molto, in queste ore perlomeno la mia timeline di Twitter commentava molto una sfilata molto importante che è stata diciamo trasmessa anche in streaming. Secondo te ha un futuro questa cosa? Cioè le sfilate come sempre meno santuario esclusivo e chiuso ai comuni mortali, se non per quello che raccontate voi che andate a vederle, ma in streaming, e quindi tutto il mondo può vedere la sfilata? E guarda, è quello secondo me che ha salvato le sfilate. Io mi ricordo quando, insomma, sono 7-8 anni fa, si cominciava a dire ma le sfilate hanno un futuro, teniamo presente che 15 minuti di spettacolo minimo 100.000 euro, ma si arriva tranquillamente al milione di euro, e quindi ci ecco, si chiedeva... Ecco, perché non tutti sanno che in realtà le sfilate sono una cosa brevissima. Sì, massimo 15 minuti, però hanno tutte le figure, tu che ti occupi tanto di spettacolo, sono proprio un mini show, cioè qualsiasi figura vediamo in un grande spettacolo, non in uno spettacolo improvvisato, c'è anche nella sfilata, dal sound designer al casting, qualsiasi cosa. Quindi mini spettacoli in miniatura molto costosi, con un cast che poi è fatto di modelle che a volte, insomma, anche loro si fanno pagare molto bene, e quindi ci si diceva: ma perché non destinare questi budget a qualcos'altro? In realtà l'investimento continua, anzi diventa sempre più grande. Abbiamo visto delle sfilate grandiose di Dior nel deserto, di Chanel nella biblioteca al museo, al Metropolitan di New York, quindi sempre più costose per chi naturalmente ha questi budget, perché hanno una vita infinita, perché innanzitutto lo streaming e poi vengono riproiettate. L'altro giorno ero in un negozio del centro, mega schermi con le sfilate, con l'ultima sfilata di quel marchio, cioè è diventato una cosa che, di cui poi non butti via niente. E quindi sì, secondo me hanno assolutamente un futuro. È bellissimo assistere a questi piccoli spettacoli, io mi emoziono ancora tanto, e quindi hanno naturalmente per quelli che le possono vedere ancora questa valenza proprio emotiva, e poi magari poi in futuro con la realtà aumentata, con tutte queste diavolerie, sarà ancora più bello vederle anche se non sei stato lì fisicamente. Che bello, cioè così tu hai il posto in prima fila, quello che un tempo era per le grandi star, adesso è per le influencer, e poi invece sei tu che hai il posto in prima fila perché è la realtà aumentata. Ti chiedo ancora un'altra cosina, Giulia, a parte il fatto che voglio sapere se poi tu, al di là di Amadeus, del quale non parliamo, se Sanremo lo guardi e se guardi i vestiti degli artisti. Guarda, su questa cosa del red carpet, cioè di vedere i red carpet o come sono vestiti gli artisti, sì, lo faccio per curiosità, anche per motivi professionali, perché poi pubblichiamo delle gallerie sul sito, però anche lì, come vorrei, perché a volte vedi proprio i vestiti scelti male per quella persona, è sempre questione di gusto, quindi come vorrei che invece sapere che magari quelle le attrici o le cantanti si vestono secondo il loro gusto. Comunque sì, lo guardo. Quando ero più giovane lo guardavo solo per fare dispetto a mio papà, che lo considerava insomma una cosa da non guardare, e adesso lo guardo a spizzichi e bocconi. Ecco, non perché gli stacchetti delle bellissime non mi appassionano particolarmente, scusa. No. Vabbè, ma tanto ha detto a me che sono bellissima, ma sì, sono a posto con quello. Eddie, dovremmo importare anche in Italia il Barbara Dex Award. Spiega agli ascoltatori cos'è. Allora, il Barbara Dex Award è il premio che gli spettatori e i fan dell'Eurovision assegnano dopo la manifestazione al cantante o alla cantante peggio vestito o peggio vestiti dell'edizione. Barbara Dex è la cantante che aveva fatto tutta la comunicazione su un abito confezionato da lei personalmente, e insomma sembrava un abito da terziaria nel migliore delle ipotesi, quindi venne creato questo premio negli anni 2000, e poi dopodiché negli anni 90, da allora è diventata una tradizione amplificata ancora di più da internet e dai social network. Cioè praticamente mentre si guarda l'Eurovision, Giulia, quando uno è vestito particolarmente male, già la gente dice: questo lo voto per il Barbara Dex Award. Secondo me il cantante vestito peggio potrebbe essere una cosa da fare anche a Sanremo. Allora, facciamo una cosa, Giulia, rimani con noi, così tengo anche te a commentare un video in tendenza di YouTube che mi ha colpito molto questa settimana. Però vorrei dare la linea alla viabilità, visto che hai citato TikTok, con un TikTok che so che ti piacerà molto, perché è uno dei TikTok più visti del 2019. Allora, il TikTok del cane citofono. Sei pronta al cane citofono? Bellissimo. Vediamo se i tuoi cani lo sanno fare. Allora, cane citofono e viabilità. Bip, bip, bip, bip. Radio Tube Social Network. Allora, no, non era il cane Andrea, era il TikTok del sensore. Adesso lo recuperiamo, il TikTok del cane Andrea, del cane, no, non è il cane Andrea, cioè il cane ha un altro nome, però c'è Andrea che suona il citofono. Ce l'abbiamo il cane? Se no, noi lo mandiamo in onda dopo. Vabbè, lo mandiamo in onda dopo. Allora, vorrei così, per questo ultimo spicchio di RadioTube, parlare di un video che è in tendenza nei trending di YouTube di questa settimana. Ovviamente sempre qui da Vicenza Oro, se sentite un effetto fiera è perché siamo qui con il nostro co-conduttore per questa puntata, purtroppo per problemi tecnici che vi ho già spiegato abbondantemente a distanza, perché non è riuscito a raggiungere Vicenza, non per colpa sua, è di Anselmi. E intanto abbiamo rapito anche Giulia Crivelli in studio a Milano. Perché io voglio parlarne con loro? Perché noi facciamo parte di una generazione un po' di mezzo, cioè non siamo boomer e quindi non siamo non abbiamo 50, 60, siamo già generazione X, ma non siamo millennial, cioè noi siamo proprio quella generazione di mezzo. C'è questo personaggio molto molto noto su YouTube che aveva creato il personaggio del Pancio, che spesso faceva anche delle cose un po' estreme. Adesso si è inventato un altro format, un format completamente diverso, e ha deciso di lanciarlo così, praticamente quasi sconfessando quello che faceva il Pancio. Eccolo qua, sentiamo la prima parte. Siamo davanti all'ascensore, quando però mia figlia si volta verso sua madre e dice: mamma, mamma, guarda come twerco. Poi, girandosi verso di me, mi dice: papà, lo facciamo assieme, l'ho visto in un video dei Me Contro Te. Cioè, mia figlia ha 5 anni e mi sta dicendo in faccia, così senza neanche preavviso, che twerk. In quel momento, raga, mi si è gelato il sangue, però così su due piedi l'ho assecondata, anche perché sennò rischiavo che poi passava per un divieto, e questa me lo fa alle spalle queste cose qua, voi è peggio, no? Ecco papà, allora ti devi mettere un po' come quando fai la cacca in giro, quella lì è la posizione, poi metti il culetto un po' più in su e poi lo muovi su e giù, cioè qua non è che lo stanno facendo in discoteca per flirtare con qualcuno, cioè queste le fanno a casa loro, su Instagram, da sole. Con lo stendino, la mamma dietro che passa. Quanto deve essere umiliante fare questa cosa da sola a casa. Eppure è pieno di questi tipi di contenuti su Instagram. Sapete perché? Perché funzionano, ragazzi. Perché questa è l'immagine che abbiamo creato della donna. Ho creato. Amore mio, tu devi sapere che la colpa di tutto questo, modestamente, di tuo papà. Mamma mia, veramente, io sono rimasta lì, perché fa tutto il discorso e poi se ne prende un po' il demerito. Cosa ne pensi, Giulia, di questa cosa? Next question. No, perché torniamo ad Amadeus, mi dispiace, che tra l'altro è della nostra generazione. Ma povero Amadeus. È l'idea un po' così, di una bellezza femminile. Sì, lui può dire tutte le donne sono belle, però... Guarda, io su questo potrei andare avanti per ore, ma no, ti prego, chiedi a Eddie un parere. No, basta, basta. Allora, Eddie, invece tu cosa ne pensi di questa cosa del padre che vede la bambina che dice voglio fare il twerking e si sente in difficoltà, perché poi in effetti, insomma, ecco, sono stati questi personaggi poi ad alzare l'asticella per fare click. Ma no, ma le ragazze degli anni 70 facevano di peggio, è un po' come un padre degli anni 60 che non dà il divieto dell'hula hoop. Dai, tu sei più laico su questo. Ma sì, cioè nel senso, la cosa strana è questa cosa, che la consapevolezza del divieto, dove c'è il divieto c'è un tabù, dove c'è il tabù c'è un desiderio. Insomma, è quella la satira, il twerking è l'hula hoop di ieri, non so, il telefono, lo StarTAC dell'altro ieri. Ogni generazione ha il suo elemento di incomunicabilità con quella precedente. A noi dicevano i cartoni giapponesi, che erano fatti col computer ed erano ipnotici e ci alienavano. Mai visto? Ma dai. Beh, io no, poi alienati siamo. Se posso solo aggiungere una cosa, io semplicemente non mi piace questa visione sesso-centrica della vita. Il twerking non è il manga giapponese e non è neanche l'hula hoop, scusami Eddie, ma purtroppo è un tema sul quale sono sensibilissima, quindi non posso scherzarci sopra. Ecco, a me certo, questa idea che appunto anche una ragazzina molto giovane debba lanciare un richiamo sessuale, e come sempre il sesso vende, fa click, fa mi piace, io non ci riesco, non ho figli, se avessi delle figlie femmine sarei un po' spaventata. Io avrei, su questo avrei molta molta paura, eh? Su questo effettivamente figlie femmine avrei una gran paura. Ragazzi, però voglio anche farvi sentire come continua questo video, mm-hmm. perché il pancio o l'ex pancio pone un altro problema molto interessante sulla rete, che è un problema di distanza tra le generazioni. Eccolo qua. È il manifesto della resa della mia generazione al mondo di merda che ci hanno lasciato i nostri genitori. Infatti nessuno di noi va a chiedere consigli a suo papà sul lavoro, anche perché poverino, che cazzo ne può capire mio padre. Ricordo una volta nel 2014 che mio padre chiese 500 euro per sponsorizzare una serie di video su Facebook. E lui non c'è stato modo, perché non si fidava. Mettere i soldi su internet, sponsorizzare, Andrea, ma che resta? A te ti servono per la droga sti soldi qua. Infatti glielo ho dovuti chiedere come regalo di Natale. E tuttora, che si fida perché ha visto i risultati, non se lo spiega come cazzo è possibile che guarda. Ma io, oltre ad aver creato il pancio, ne ho fatto molto molto peggio. Cioè ho trasgredito le uniche due regole non scritte che abbiamo noi millenni. Cioè non fare figli, anche perché parliamoci chiaro, i figli li fai se stai molto bene economicamente, se sei egoista e hai bisogno di paternità, oppure per errore, cioè non c'è, se no ti fai un cane, compa. Cioè, e poi c'è la seconda regola che ci siamo dati, cioè non andare a votare finché c'è questa classe dirigente dei nostri genitori. Beh ragazzi, devo dire che mi sembra un video molto interessante. Andatelo a vedere, che è nelle tendenze di questa settimana. Il pancio che ha fatto un passo indietro con un nuovo format sui millennials. Allora, questo video, che è stato postato solo ieri, ha già 492.642 views. Ragazzi, sono dei numeri enormi. Allora, noi quanto abbiamo ancora, Guido? Abbiamo ancora un minuto, quindi io non posso fare altro che ringraziare, perché poi così in chiusura magari riusciamo a sentire il cane col citofono. Allora, io devo ringraziare moltissimo il nostro co-conduttore che presto avremo a Milano, Eddie Anselmi. Ciao Eddie, ricordiamo il Festival di Sanremo in libreria. Ciao Eddie. Ciao Marta e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24. Grazie, grazie a Giulia Crivelli e grazie a Elena Ligios, grazie a Guido Scotti, grazie a Luigi Speciale, grazie a Flavio Ferrario, grazie anche a Milano, a Danilo Di Trani e a Valeria Bernardi, spero di aver detto tutti. Noi ci ritroviamo ancora la prossima settimana con Radio Tube. A prossima settimana! Andrea, Andrea. Cosa vuoi?